terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Uscito dall'ospedale cominciai a cercare nel New England, in campagna o in una cittadina sonnolenta, olmi, chiesetta bianca, un posto dove poter trascorrere un'estate operosa, sostentandomi con una compatta cassa di appunti che ero andato accumulando e bagnandomi in qualche lago dei dintorni. Il lavoro mi interessava di nuovo, voglio dire, i miei esercizi d'erudizione, l'altro, l'attiva partecipazione ai profumi postumi dello zio, era ormai ridotto al minimo. Uno dei suoi ex dipendenti, il rampollo di una famiglia illustre, mi propose di andare per qualche mese da un suo cugino, il signor McCoo, che aveva avuto dei rovesci di fortuna e adesso era in pensione. Lui e la moglie intendevano affittare l'ultimo piano di casa loro, dove aveva delicatamente abitato un'anziana zia, defunta. Disse che avevano due figliolette, l'una in fasce, l'altra sui 12 anni. È un bellissimo giardino non lontano da un bellissimo lago. Risposi che mi sembrava tutto perfettamente perfetto. Dopo uno scambio di lettere si convinsero che ero addomesticato e trascorsi sul treno una notte sublime, fantasticando su ogni possibile dettaglio dell'enigmatica ninfetta cui avrei dato ripetizioni di francese, accarezzandola in ambertesco. Nessuno venne a prendermi alla stazione Giocattolo, dove scesi con la mia costosa valigia nuova. Nessuno rispondeva al telefono. E alla fine McCoo, fradicio e sconvolto, mi raggiunse nell'unico albergo della Verde Rose a Ramsdale per comunicarmi che la sua casa era appena stata rasa al suolo da un incendio, forse in seguito alla sincrona conflagrazione che aveva imperversato tutta la notte nelle mie vene. Moglie e figlie, mi disse, erano fuggite con la macchina in una fattoria di sua proprietà, ma un'amica di sua moglie, una persona squisita, la signora Hayes, Lone Street 342, si offriva di ospitarmi. La dirimpettaia di questa Hayes gli aveva prestato la sua limousine, una vettura deliziosamente antiquata dal tetto quadro, con un negro gioviale al volante. Ora che l'unica ragione di quel mio viaggio si era dileguata, la sistemazione di cui sopra non aveva giustificazione alcuna. Strada facendo giurai a me stesso che per nulla al mondo sarei rimasto a Ramsdale. Avrei preso quel giorno stesso il primo aereo per le Maldive, o le Mauritius, o le Malebolge. Mentre sterzavamo per imboccare Lone Street, per poco non investimmo un invadente cane suburbano, uno di quelli che aspettano le automobili sdraiati in mezzo alla strada. E poco oltre, ecco casa Hayes. Un orrore di legno bianco, dall'aria squallida e vetusta, più che bianca, grigia. Una di quelle case in cui sai già che invece della doccia c'è un tubo di gomma applicabile al rubinetto della vasca. Diedi la mancia all'autista sperando che se ne andasse immediatamente, consentendomi così di fare dietro front e tornarmene zitto zitto all'albergo e alla valigia. Ma lui si limitò a portarsi dall'altro lato della strada, dove un'anziana signora lo chiamava dalla veranda. Che potevo fare? Suonai il campanello. Mi accolse una cameriera negra che mi piantò sullo zerbino per tornare a precipizio in cucina, dove stava bruciando qualcosa che non doveva bruciare. L'ingresso era guarnito da un vezzoso carrion collegato alla porta, da un mostriciattolo di legno con le orbite bianche, genere artigianato messicano, e dallo scontato beniamino dei borghesucci con pretese artistiche, l'Arlesian di Van Gogh. Sulla destra, da una porta socchiusa, si intravedeva un salotto con ulteriore paccottiglia messicana in un'angoliera e un sofà a strisce contro il muro. In fondo al corridoio c'erano le scale e mentre mi asciugavo la fronte non m'ero accorto di quanto facesse caldo fuori e fissavo, tanto per fissare qualcosa, una vecchia palla da tennis grigia su una cassapanca di quercia, dal pianerottolo giunse la voce di contralto della signora Hayes, la quale, sporgendosi dalla ringhiera, domandò melodiosa: «È lei, Monsieur Humbert?» Insieme alla voce scese anche un po' di cenere di sigaretta. Poco dopo, la signora in persona, sandali, pantaloni marrone, blusa di seta gialla, faccia quadrata in quest'ordine, scese i gradini, l'indice che ancora picchiettava la sigaretta. Sarà meglio che la descriva subito per togliermi il pensiero. La poveretta era sui 35 anni, aveva la fronte lucida, le sopracciglia depilate e i tratti piuttosto elementari, ma non sgradevoli, del tipo che si potrebbe definire una soluzione molto diluita di Marlene Dietrich. Tastandosi lo chignon di un castano bronzeo, mi condusse in salotto, dove ci intrattenemmo per un minuto all'incirca sull'incendio di casa Mekou e sui pregi della vita a Ramsdale. Gli occhi verde mare, molto distanziati, avevano uno strano modo di viaggiarti addosso, evitando scrupolosamente di incontrare il tuo sguardo. Il sorriso non era che lo scatto interrogativo di un sopracciglio, e mentre parlava continuava a svolgere le sue spire dal divano, per gettarsi spasmodicamente verso tre posacenere e il vicino caminetto, dove giaceva il bruno torsolo di una mela. Dopodiché sprofondava di nuovo nei cuscini, una gamba piegata sotto di sé. Era palesemente una di quelle donne nelle cui parole forbite si riflette magari un club del libro, del bridge o qualche altra micidiale banalità, ma mai l'anima. Donne completamente prive di senso dell'umorismo, donne del tutto indifferenti in cuor loro alla dozzina di possibili argomenti da salotto, ma molto attente alle regole della conversazione di per sé, attraverso il cui solare cellophane si possono facilmente discernere frustrazioni non molto appetitose. Nell'improbabilissima eventualità che rimanessi, sapevo perfettamente con quanto metodo si sarebbe accinta a riservarmi il trattamento certo implicito per lei nel fatto stesso di prendere un pensionante, e mi sarei trovato di nuovo impegolato in una di quelle uggiose relazioni che conoscevo bene. Ma stabilirmi lì era fuori questione. Non potevo essere felice in quel genere di casa, con le sedie ingombre di riviste bisunte, una sorta di orrendo ibrido tra la farsa del cosiddetto funzionale arredamento moderno e la tragedia delle sedie a dondolo decrepite e dei tavolini rachitici sovrastati da lampade defunte. Mi condusse di sopra e poi a sinistra nella mia camera. La ispezionai attraverso la bruma di un'assoluta ripulsa, ma riuscii a distinguere sopra il mio letto la sonata Kreutzer di René Prinet e pensare che la chiamava camera studio, quel solaio per la servitù. Fidiamocela subito di qui, mi disse con fermezza, e mentre fingevo di soppesare la somma minacciosamente risibile che la mia trepidante padrona di casa mi chiedeva per vitto e alloggio. Tuttavia, la mia cortesia di vecchio stampo mi impedì di sottrarmi subito a quel cimento. Traversammo il pianerottolo e raggiungemmo il lato destro della casa, dove ci sono la stanza mia e quella di Lò, essendo Lò presumibilmente la domestica. E a stento l'inquilino amante riuscì a trattenere un brivido quando Damaschio, estremamente schizzinoso qual era, gli fu concessa un'anteprima dell'unico bagno, un minuscolo vano oblungo tra il pianerottolo e la stanza di Lò, con flosce cose gocciolanti appese su una vasca dall'aria sospetta, dentro il punto interrogativo di un capello. C'erano anche le previste volute del serpente di gomma con i loro pantin, la vezzosa scolorita foderina rosa sul coperchio del vader. «Vedo che non le ha fatto una grande impressione», disse la signora, posandomi per un attimo la mano sulla manica. «Sì, lo ammetto, la casa non è a posto», continuò la povera condannata. «Ma le assicuro», mi guardava le labbra, «che si troverà molto bene, anzi benissimo. Lasci che le mostri il giardino». Oh, how I love you, honey, hush. Your lovely cheeks make roses blush. Your lips are divine. They taste just like wine. They seem to whisper of love. Oh, how I love you, honey, hush. My heart is giving me the rush. I'm dreaming my dream. I'm scheming my schemes. Please tell me yes, my turtle dove. Your eyes shine like stars up above, making me know that I'm in love. Oh, my sweet, don't do this to me. Tell me you'll be always with me. Oh, how I love you, honey, hush. My heart is singing like a thrush. I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey, hush. a thrush. Yeah, I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush. Attraverso una piccola dispensa entrammo nella stanza da pranzo, parallela al salotto che avevamo già ammirato. Notai un calzino bianco sul pavimento. La Hayes, senza fermarsi, lo raccolse con un brontolio e lo gettò in un armadio vicino alla dispensa. Esaminammo brevemente un tavolo di mogano con una fruttiera al centro che conteneva soltanto il nocciolo ancora luccicante di una sola prugna. Frugai in una tasca per cercare l'orario e di nascosto lo tirai fuori per consultarlo appena possibile. Camminammo ancora alle spalle della Hayes attraverso la sala da pranzo quando più in là scorsi un improvviso tripudio di verzura. «La loggia!» cinguettò la mia guida e poi, senza il minimo preavviso, un'azzurra onda marina si gonfiò sotto il mio cuore su una stuoia immersa in una polla di sole, seminuda, sdraiata e poi in ginocchio e poi voltata sulle ginocchia. Ecco, la mia innamorata della costa azzurra che mi squadrava al di sopra degli occhiali scuri. Era la stessa bambina, le stesse spalle fragili e sfumate di miele, la stessa schiena nuda, serica e flessuosa, gli stessi capelli castani, un foulard nero a pois annodato sul petto nascondeva ai miei occhi di attempato scimmione, ma non allo sguardo della giovane memoria, seni immaturi che avevo accarezzato un giorno immortale. E come la nutrice della fiaba della principessina perduta, rapita, scoperta nei laceri panni di una zingarella attraverso i quali la sua nudità sorrideva a re ai suoi segugi, riconobbi il minuscolo neo bruno sul suo fianco. Sgomento ed esultante! Il re che piange di gioia, lo squillo delle trombe, la nutrice ubriaca, rividi il suo adorabile addome rientrante, dove la mia bocca, diretta a sud, aveva brevemente indugiato, e quei fianchi puerili sui quali avevo baciato l'impronta merlata dell'elastico dei calzoncini, quell'ultimo folle giorno immortale dietro le Roche Rose. I 25 anni che avevo vissuto da allora si affusolarono in una punta palpitante e svanirono. Mi è molto difficile esprimere con forza adeguata quel lampo, quel brivido, quell'empito di appassionata ignizione. Nell'attimo iniettato di sole in cui il mio sguardo scivolò sulla bambina inginocchiata, le palpebre che battevano al di sopra di quei severi occhiali scuri, la piccola Herr Doktor che mi avrebbe guarito da tutti i miei dolori, mentre le passavo accanto travestito da adulto, un grande, possente, splendido esemplare di virilità hollywoodiana, il vuoto aspirante della mia anima riuscì a risucchiare tutti i dettagli della sua radiosa bellezza, che paragonai a quelli corrispondenti della mia promessa sposa defunta. Presto, naturalmente, lei, questa nouvelle, questa Lolita, la mia Lolita, avrebbe eclissato completamente il suo prototipo. Voglio solo sottolineare che da parte mia la sua scoperta fu una fatale conseguenza di quel principato sul mare del mio tormentato passato. Tutto fra quei due eventi era stato soltanto un susseguirsi di brancolamenti ed errori, di menzogneri embrioni del piacere. Tutto ciò che li accomunava ne faceva una cosa sola. Oh, ma non mi illudo. I miei giudici vedranno tutto questo come il ridicolo teatrino di un pazzo grossolanamente proclive al fruit vert. Au fond, ça m'est bien égal. Io so soltanto che mentre la Hayes e io scendavamo in quel giardino dal fiato mozzo, le mie ginocchia erano come ginocchia, riflesse nell'acqua increspata, e le mie labbra come sabbia, e quella era la mia Lo, disse la Hayes. E questi sono i miei gigli? Sì, risposi. Sono belli, bellissimi. Reperto numero 2 è un'agendina rilegata in finta pelle nera, con un anno dorato, il 1947, inciso en escalier sull'angolo in alto a sinistra. In realtà è andato distrutto 5 anni fa. Ciò che esaminiamo ora, per cortese concessione della memoria fotografica, è soltanto una sua fuggevole materializzazione, una sparuta in plume felice. Giovedì, giornata caldissima. Dal mio osservatorio, finestra del bagno, ho visto Dolores nella luce verde mela dietro la casa. La mia bellezza s'è sdraiata a bocconi, mostrando a me e alle mille pupille sgranate del mio sangue occhiuto le scapole appena sollevate e la peluria lungo l'incurvatura della spina dorsale e il gonfiore delle sode strette natiche fasciate di nero e la balneare esposizione delle cosce da scolaretta. In silenzio, l'alunna di seconda media leggeva con diletto i suoi fumetti verdi, rossi e blu. Era la più bella ninfetta che Priapo, verde, rosso e blu, potesse escogitare. Martedì, pioggia, lago delle piogge, mamma a far compere. Lo sapevo, era vicina. Grazie ad alcune furtive manovre l'ho incontrata nella camera di sua madre. Si teneva l'occhio sinistro spalancato per toglierne un bruscolo, vestito a quadretti. Per quanto io adori la sua bruna, inebriante fragranza, penso davvero che dovrebbe lavarsi i capelli ogni tanto. L'ho presa bruscamente per le spalle, poi teneramente per le tempie, girandola verso di me. «È qui», ha detto, «lo sento». Una contadina svizzera userebbe la punta della lingua. «Per le Carlovia? Ti porto provare io?» «Ok». Premuto con delicatezza il mio palpitante pulcinglione sul globo salso e roteante. «Viva!» ha detto lei sbattendo le palpebre. «È uscito davvero!» «Adesso l'altro, scemo!» ha cominciato. «Non c'è niente!» Ma a questo punto ha notato le mie labbra protese. «Ok!» ha detto in modo accomodante. E il tetro Humbert, chinandosi verso il viso caldo e arrossato rivolto all'insù, ha premuto la bocca contro la palpebra tremula. Ha riso, sfiorandomi, e è uscita dalla stanza. Subito mi è parso di avere il cuore dappertutto. Mai nella mia vita, neanche quando accarezzavo il mio amore bambino in Francia, mai. Sabato, già da qualche giorno quando scrivo in camera mia, lascio la porta socchiusa, ma soltanto oggi la trappola ha funzionato. più irrequieta del solito, ciabattando e strascicando i piedi per nascondere l'imbarazzo di essere entrata senza invito, Lo è entrata. E dopo aver ciondolato un po' per la stanza, si è interessata ai rigori da incubo che con la penna avevo tracciato su un foglio. Mentre Lo chinava i riccioli castani sulla scrivania a cui ero seduto, Humbert, il rauco, l'accinta con un braccio nella patetica imitazione di una familiarità tra consanguinei. E la mia innocente, piccola visitatrice, continuando a studiare con sguardo miope il foglio che aveva in mano, si è calata lentamente sul mio ginocchio in una posizione semiseduta. Il suo profilo adorabile, le labbra dischiuse, i tiepidi capelli erano a una decina di centimetri dal mio canino scoperto, e attraverso i ruvidi vestiti da ragazzaccio ho sentito il calore delle sue membra. D'un tratto mi sono reso conto che potevo baciarle la gola o l'angolo della bocca con assoluta impunità. Una bambina moderna, avida lettrice di riviste di cinema, esperta di primi piani lenti come sogni, non avrebbe trovato troppo strano, pensavo, che un amico adulto, prestante e intensamente virile, troppo tardi. La voce della Carola Louise ha fatto vibrare la casa. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit, you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere best of shame, please let me explain. By mere best of shame means you're grand. By mere best of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevender Bar, each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere best of shame, so kiss me and say you understand. You've heard it all before, but let me try to explain. By mere biz to shame means that you're grand. By mere biz to shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven to buy, each language only helps me tell you how grand you are. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov.